normale. Guardare tutto un equilibrio in fondo, prima o poi normale. Questo via vai sporcarsi a stare bene senza mai capirsi bene. Sorridere se perfetti per difendersi, lo sai normale. Accordami la mente per suonare buchi spazio-temporali. E ruba tanti doni, questa è la mia lista di Natale. Regalami un sole con l'interruttore, ho voglia di giocare. Vai, sei tutto quel che puoi che non sai, quel che prendi, quel che dai. Ridi più forte finché non ci sei più e guarda più su, girami nell'aria che è. Dammi dos diretti da Beethoven, quanta luce in questo requiem in re. E ci sbagliamo e come sempre ci piacciamo poi. Normale. Le critiche dei critici che dicono sei poco originale. Lavarsi i denti con la cocaina per sentirsi più speciali. Regalami dei soldi che mi sento pronto per sperare. La schizofrenia di chi ci crede ancora, credo sia normale. Scoprire quanto è bello pedalare per una multinazionale. Ricordami che siamo insieme, ma non per sempre, sai normale. Vai, sei tutto quel che puoi che non sai, quel che prendi, quel che dai. Ridi più forte finché non ci sei più e guarda più giù, girami nell'aria che da noi dos diretti da Beethoven, quanta luce in questo requiem in re. E ci sbagliamo e come sempre ci piacciamo.